In treno per Firenze. E non s'arrivava. Si cominciava a sentir parlare toscano e io, preso come alla sprovvista, sobbalzai sul sedile. Oh bello, oh bello! Senti, senti! Ma i romagnoli del treno avevano l'aria di torcere il naso perché nasceva la diffidenza per chi parlava meglio di noi. Anche mio padre fece una smorfia come se non gli piacesse sentir parlare tanto bene. Io dovevo invece imparare per la dizione. Senti, papà, si dice stelle, non stelle, si dice bene, non bene. Noi abbiamo sempre sbagliato. Egli mi guardò sbigottito all'idea che noi avessimo sempre sbagliato. Poi ad un mond leder. Questo era tutto? Io avevo troncato gli studi per dir stelle con le stretta e bene con le larga. Questa era la nuova scuola. Firenze era questo? Marino Moretti.